La storia e la memoria di Dino Pesole. Non abbiamo più un popolo, una patria, un bene comune, un comune ideale. Il ricordo della resistenza non solo è lontano, ma serve di pretesto retorico agli uni e agli altri. E quanto affermava il 15 luglio del 1950 Don Primo Mazzolari, parroco a Bozzolo in provincia di Mantova, dopo la guerra gli fu riconosciuta la qualifica di partigiano. L'articolo dal titolo Patria, terra di nessuno venne pubblicato su Adesso, era un quindicinale d'impegno cristiano da lui fondato nel gennaio del 1949. Nel giorno in cui celebriamo il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo, abbiamo scelto di proporvi questa riflessione tratta dalla lezione che lo storico Emilio Gentile ha appena tenuto all'Auditorium di Roma nell'ambito dell'iniziativa Libertà, una maratona di storia, letteratura, cinema e musica a cura della casa editrice La Terza e Musica per Roma. Stralci della lezione del professor Gentile sono stati pubblicati domenica scorsa sull'inserto culturale del Sole 24 Ore. Buonasera professore e bentornato. Buonasera, grazie. Don Mazzolari fu uno dei primi a lamentare il rapido dissolversi dello spirito unitario e patriottico della Resistenza. Dopo la fine della collaborazione governativa fra i partiti antifascisti, l'inizio della Guerra Fredda, la vittoria della Democrazia Cristiana nelle elezioni del 48 e l'adesione dell'Italia alla NATO. Iniziò allora l'aspra contesa fra i partiti antifascisti, ciascuno dei quali rivendicava l'interpretazione autentica della Resistenza, trasfigurandola in un mito secondo i canoni della propria ideologia. In realtà, lo spirito unitario e patriottico della Resistenza aveva cominciato a mostrare qualche crepa già alla fine del 1945. Il 30 dicembre, commentando L'anno che muore, Pietro Nenni, ministro del primo governo presieduto da De Gasperi, succeduto al governo Parri il 10 dicembre, scriveva: «Spente le luminarie della vittoria, sono ritornati i tempi amari. Qui da noi, il vento gagliardo del nord si è affievolito e quasi spento. L'occupazione ha reciso i nervi alla rivoluzione popolare di aprile e ha ridato fiato ai resti del fascismo. Ministeri sono sorti e caduti, speranze hanno brillato e si sono estinte come meteore. Tutto è ridiventato duro e incerto». Il giorno prima, al 5° congresso del Partito Comunista Italiano, Togliatti, anch'egli ministro, aveva reclamato che «senza l'azione organizzata e senza la lotta politica chiaroveggente del nostro partito non si sarebbero potuti raggiungere quei risultati più o meno grandi, ma in determinati momenti molto importanti che si sono potuti ottenere nella ricostruzione di un'unità nazionale e spirituale del popolo italiano dopo il crollo del fascismo». Nella ricostruzione di un regime democratico di libertà e di lavoro. Allora, professor Gentile, è una vera e propria contrapposizione di diverse memorie storiche, potremmo dire. È stato un po' il dramma del mito della Resistenza, quello di non aver saputo mantenere l'unità che si era realizzata fra il 1943 e il 1946. Un dramma che è stato vissuto da coloro i quali parteciparono alla Resistenza con la convinzione che i vari partiti non avevano più ragione di sussistere come una coalizione, perché soprattutto in seguito all'inizio della Guerra Fredda le ideologie e gli schieramenti sia interni che internazionali ne risentivano molto e di conseguenza piuttosto che il ricordo e l'attualizzazione del mito dell'unità, quello invece non solo della divisione, ma di un antagonismo conflittuale che diventò una sorta di guerra civile fredda, soprattutto fra comunisti e democristiani. Ecco, lei parla di contesa sulla trasfigurazione mitica della Resistenza attraverso miti antagonisti. Questo è un po' il senso anche della sua lezione. Diciamo, la Resistenza dà origine a un mito, come tipico di tutti i grandi eventi che sconvolgono la vita degli esseri umani, specialmente poi la vita di una comunità nazionale. Non c'è nulla di malefico in questo, è compito poi degli storici valutare quanto in questo mito risulti corrispondente a un dato reale, quanto invece sia pura costruzione di esaltazione gloriosa ma senza riferimenti alla realtà. Questo mito c'è stato, la resistenza, la storiografia lo ha sfrondato delle sue esagerazioni, ma per andare al succo di questo mito, ciò che rimane è che da una parte ci doveva essere il riconoscimento che in quella fase, in quel periodo di guerra civile, tuttavia gli italiani che combatterono per la resistenza, per la liberazione, furono uniti, nonostante le loro antagoniste ideologie, da alcuni valori comuni: l'unità, la liberazione, la giustizia sociale, la democrazia. Ora, nel momento in cui inizia invece la contesa su questo mito, piuttosto che ricondurlo alla realtà di ciò che è stato storicamente, lo si esaltò in maniera contrapposta. Per alcuni comunisti diventò il mito della resistenza tradita dalla Democrazia Cristiana e dai suoi alleati, per la Democrazia Cristiana diventò il mito di una resistenza che aveva esaurito nella nascita di una repubblica la sua funzione rivoluzionaria o riformatrice o rigeneratrice e che non doveva più dare luogo a scontri come quelli che avvenivano praticamente durante ogni celebrazione del 25 aprile. Le accuse reciproche erano che i comunisti volevano monopolizzare il mito della resistenza per farne un mito rivoluzionario di contestazione dei governi democristiani e quindi del sistema di potere creato con il voto popolare del resto dalla Democrazia Cristiana, e da parte della Democrazia Cristiana si guardò soprattutto a quello che era il risultato effettivo. Si era creata una repubblica, si era data una Costituzione. Per i comunisti la Democrazia Cristiana aveva tradito la resistenza perché aveva tardato ad attuare la Costituzione ed era soprattutto poi considerata la quinta colonna dell'imperialismo americano, compromessa anche con i resti del fascismo che erano sopravvissuti alla resistenza. E oggi, professor Gentile, a 70 anni dalla liberazione, non esiste più la Democrazia Cristiana, non esiste più il Partito Comunista, nuove forze politiche si sono affermate negli ultimi 20 anni. E dunque qual è la memoria che secondo lei di quell'evento si può tramandare oggi soprattutto ai giovani? Ma direi che è fondamentalmente la stessa memoria che si dovrebbe tramandare del risorgimento. Non è correttamente storico il termine secondo risorgimento riferito alla resistenza, ma sicuramente c'erano dei valori fondamentali nel risorgimento, quelli della libertà e della libera cittadinanza in uno Stato indipendente e sovrano. Con la resistenza, la riconquista di uno Stato indipendente e sovrano fondato sulla libertà, ma estesa al maggior numero di italiani, a tutti gli italiani. Questo è un dato fondamentale che non credo possa essere sepolto con la smitizzazione della resistenza, almeno che non diciamo, come io ho detto, che certo tutti gli ideali possono essere dei miti e non corrispondere alla realtà, ma se consideriamo mito la libertà, la democrazia, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la giustizia sociale, e come miti pensiamo che vanno scaricati nell'oblio della memoria, credo che siamo messi in pessime condizioni come paese democratico e civile. Ora ci tolga una curiosità, professor Gentile, e come mai ha scelto tra le tante testimonianze possibili quella di Don Primo Mazzolari, che era un parroco che operava in provincia di Mantova e cui poi fu riconosciuta anche la qualifica di partigiano, per dire appunto che non abbiamo più un popolo, una patria, un bene comune? L'ho scelto perché innanzitutto era un parroco di una piccola parrocchia, ma era un uomo di grande cultura, un intellettuale cattolico. L'ho scelto perché Don Primo Mazzolari era stato, quando era in seminario all'inizio del Novecento, aveva una forte passione per il risorgimento italiano, per Mazzini persino, per Garibaldi, per Vittorio Emanuele II, e non accettava e pregava perché avvenisse la riconciliazione tra lo Stato e la Chiesa. Partecipa volontario come cappellano alla Grande Guerra, dove perde anche un fratello, poi è con una missione italiana in Polonia, dove conosce il cardinale Ratti, il futuro Pio XI, è un parroco antifascista che non accetta neanche il concordato perché pensa che sia un compromesso della Chiesa con il potere, e è un parroco che durante la Repubblica Sociale dal 1943 al 1945 fu arrestato e rischiò anche di essere ucciso se non si fosse poi rifugiato nella clandestinità. Dopo la guerra, nel secondo dopoguerra, accetta di sostenere la Democrazia Cristiana, ma vuole dialogare anche con i comunisti. e in questi articoli in cui denuncia il fallimento della resistenza come motivo patriottico unitario, mi pare che abbia saputo sintetizzare quanto di meglio c'era nello spirito del patriottismo risorgimentale, del patriottismo della Grande Guerra, della difesa della libertà del cristiano in una società di liberi e non in un regime totalitario, e poi ha dimostrato, dopo negli odi del dopoguerra, di saper guardare comunque dall'altra parte per un tentativo di conciliazione. Insomma, una figura molto interessante che lei richiama, di un parroco antifascista, dunque, che, come ricordava, ha rischiato anche di essere arrestato. Non a caso il titolo dell'articolo è molto istruttivo: Patria, terra di nessuno, appunto, professore? Sì, e soprattutto poi di un patriottismo che viene da un parroco in una Italia dove si è sempre pensato che lo scarso senso della patria, lo scarso senso dello Stato fosse dipeso dalla presenza di uno Stato così potente spiritualmente come la Chiesa Cattolica. In realtà Don Primo Mazzolari dimostra che cattolicesimo e patriottismo non erano termini incompatibili, senza con questo voler convertire il patriottismo al cattolicesimo. Certo, certo. Grazie professor Gentile, le auguriamo buona serata.